Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, sono di nuovo Andrea Paolo di Allineamenti. In questa puntata vi proverò a dimostrare come i Free Walking Tour non sono solo un momento in cui la guida spiega e i turisti imparano, ma anche un'occasione di scambio. La guida, Teodora, ci raccontava delle mura di Belgrado e del fatto che Belgrado significhi città bianca. Allora ho spiegato a Teodora come a Lugo, in Spagna, una guida mi aveva raccontato di come i romani ricoprissero le mura di calce bianca in maniera che le mura stesse riflettessero la luce del sole e accecassero i nemici, dissuadendoli dall'attaccare. Quindi probabilmente anche quelle mura avevano contribuito a soprannominare Belgrado la città bianca. Poi Teodora ci ha parlato di Victor, una statua di un uomo possente che commemorava la vittoria contro i turchi e la liberazione dei territori dell'ex Jugoslavia dai turchi. Questa statua, raccontava Teodora, avrebbe dovuto essere esposta davanti all'hotel Moscow, ma era poi stata spostata in un parco perché Victor era troppo nudo e il puritanesimo non andava d'accordo con certe oscenità. Allora ho chiesto a Teodora: non è che per caso la scelta di dove sistemare la statua è stata di natura puramente estetica? Infatti, questa enorme statua di bronzo era ormai completamente verde, ma di una tinta completamente differente da quella delle decorazioni dell'Hotel Moscow. Inoltre ho detto a Teodora: il verde di Victor, con il bianco della parete rocciosa ed il rosso dei mattoni dell'arsenale, creano un abbinamento perfetto. Ma non mi ha risposto. Lancio il brano musicale e poi continuiamo. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, cutting a Joe? Ero con Vladimir, vi ricordate, e seguivo il suo tour sul comunismo. Vladimir ci illustrava come, in quella stessa sede dove il Partito Socialista si riuniva per discutere i destini della nazione serba, oggi sorge un McDonald's. Vladimir sottolineava l'ironia, ma io non ero affatto d'accordo e io ho detto: «Che cosa c'è da ridere? Il comunismo predica che tutti gli uomini abbiano le stesse identiche quantità e qualità del cibo e quindi McDonald's è la perfetta realizzazione del comunismo». Però, a parte queste baggianate, mi piacerebbe chiudere la puntata ritornando con la memoria ad un momento della vacanza che mi ha veramente trasmesso che cosa vuol dire essere serbo oggi. Alla fine del tour del centro storico, Teodora ci ha indicato la sede della Banca Nazionale Serba e ci ha detto: «Se entrate c'è un'esposizione con tutte le monete e banconote e il pezzo principale della collezione è questo». E Teodora ha tirato fuori una banconota con la sua foto. Infatti, alla fine dell'esposizione è possibile farsi scattare una foto che viene poi stampata su una banconota. Ed il tutto è gratuito. Ed ora vi auguro una buona notte. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.